denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Roberta Pellegatta, Radio 24, il Sole 24 Ore. E l'occasione per questa sua presenza. Benvenuti da Anna Marino a Voci di Pico. Come era prevedibile, apertura in rialzo per Sulletta bis sono ormai pochi a scommettere. Appena Papa Benedetto fu eletto. Quella di oggi è una storia a due voci che racconta. Grazie Vincenzo, sollecitano decisioni. Ma una sola per ora, per la prima volta nella storia. È stata una rivoluzione anche perché per la prima volta Maria Piera Ceci, Radio 24, il Sole 24 Ore. Gli industriali chiedono risposte dal governo. Per la kermesse inaugurale di 3 giorni, 25. Potrebbe servire, Fausto, visto che abbiamo ancora un minuto. Mi trovate anche su Twitter, @Valfurla, trovate le ricette sulla pagina del Questa programma. Cosa che ha descritto, dice, non la voglio chiamare solitudine, ma isolamento. E quelli che con gli abiti della festa addosso ormai sorridono. Il commento di Bolagno era stato espresso. Parliamo di comfort food, restate con noi. Che rendono grande Radio 24. Iniziamo con una dedica a tutte le nostre colleghe. Speriamo che abbiano festeggiato una buona festa della donna, e così come lo speriamo per tutte voi che ci ascoltate. Se volete raccontarci come avete trascorso l'8 marzo, 800 24 00 24. Chissà se questi uomini si sono ricordati di questa ricorrenza, se hanno regalato la mimosa, oppure siete dell'idea che la festa delle donne debba essere festeggiata tutti i giorni. Certo che nella vita di tutti i giorni essere donna non sempre semplice, a cominciare da quello che accade nel mondo del lavoro. Siamo così, è difficile spiegare certe giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare. Lavorare per noi donne è un'esigenza, un'affermazione di autonomia, e rappresentiamo una quota importante della produttività del nostro paese, ma ancora oggi il prezzo che paghiamo è piuttosto alto, perché oltre al lavoro dobbiamo gestire una serie infinita di compiti e mansioni che riducono sensibilmente il tempo che abbiamo a disposizione per noi, per occuparci del nostro benessere fisico e psichico, per tutelare la nostra salute. Aggiungiamo poi al tutto una buona dose di stress e quindi la possibilità di vedere aumentare anche il rischio di malattie correlate come quelle cardio e cerebrovascolari o le abitudini dannose come il fumo di sigaretta. I dati sull'incremento del numero di casi di tumore al polmone femminile si commentano da sole. Insomma, se è vero che lavorare stanca, il lavoro può essere in certi casi considerato un fattore di rischio per la salute, in quanto proprio a causa del lavoro trascuriamo sia la prevenzione primaria che quella secondaria. Tutto questo diventa ancora più complicato se il lavoro è un lavoro da libera professionista. In questo caso è quasi vietato ammalarsi. Già per molte lavoratrici e molti lavoratori del mondo degli autonomi un solo giorno di malattia può rappresentare un bel problema: fatturato mancato, clienti non incontrati, un giorno di ritardo nella consegna di un ordine, con tutte le conseguenze che si possono verificare. Immaginate se poi invece di un giorno di febbre la malattia è più seria, più grave, richiede una terapia, un recupero lungo e faticoso. Allora l'indomani dell'8 marzo vogliamo dedicare un pensiero particolare alle donne colpite dal cancro, che ne sopportano il carico e il dramma umano che inevitabilmente travolge. Parleremo di prevenzione oggi, ma anche di tutti gli aspetti legati alla sfera professionale e di conseguenza economica. Per cui, se vi riconoscete in queste prime considerazioni che abbiamo fatto, mano alla cornetta, 800 24 00 24, iniziate a raccontarci la vostra storia. Allora, salutiamo Deborah, i nostri ospiti sono qua in studio con noi. Diamo il benvenuto alla dottoressa Giovanna Luini, medico, comunicatore scientifico, senologa allo IEO, scrittrice di narrativa e saggistica, autrice di numerosi libri di cui abbiamo parlato tante volte in trasmissione: L'età della donna, Diario del corpo femminile, e Il mio mondo è donna, scritta a quattro mani con il professor Umberto Veronesi, Mondadori editore. Buongiorno. Buongiorno. Ed è con noi anche l'avvocato Gabriele Fava, abbiamo voluto. No? Certo, si occupa anche di questi argomenti. Giuso lavorista ed esperto per il Sole 24 Ore sui temi del lavoro. Intanto buongiorno. Buongiorno a voi. Ben trovato, avvocato. Grazie. Salutiamo anche un ospite in collegamento telefonico, una donna che da lavoratrice autonoma si sta impegnando in questa battaglia della quale abbiamo parlato fino ad ora, battaglia di rivendicazione dei più banali diritti assistenziali durante la malattia. Daniela Fregosi, in arte Afrodite K, la conosceranno in molti, si definisce la voce dei lavoratori autonomi che si ammalano, ma è soprattutto anima di un seguitissimo blog, tumoreseno.blogspot.it. Daniela, buongiorno e bentrovata. Buongiorno a tutti e a tutte le donne. Benvenuta. Grazie Daniela. Eccoci. Allora, entriamo subito nel vivo. La storia di Daniela Fregosi, che tra poco sentiremo, è proprio quella di una donna, per giunta lavoratrice autonoma, come anticipava Deborah, che si è ammalata di tumore al seno. Dottoressa Luini, il tumore al seno non riguarda solo alcune categorie di donne. Il 70% dei casi colpisce donne che non hanno i cosiddetti fattori di rischio, è corretto? Sì, è vero, questo è importante da dire nell'ottica della prevenzione. Tutte le donne hanno un rischio concreto di tumore al seno. Con l'avvocato Fava oggi parleremo della sfera del lavoro, come abbiamo anticipato poco fa, e di come si intreccia questa con la malattia. Qualche settimana fa l'Associazione Europea Donna, Europa Donna, ha condotto la ricerca tumore al seno, il rapporto lavoratrice-azienda e il rientro post-malattia. È un progetto proprio dedicato alle lavoratrici tornate al lavoro dopo aver superato la battaglia con il cancro al seno attraverso l'intervista a 122 lavoratrici e 21 aziende. Da questa indagine emergono tre grossi problemi che aggravano il peso della malattia per le donne: difficile accesso alle informazioni sui propri diritti, un quadro normativo frammentato in una miriade di leggi e di contratti collettivi, la difficoltà di conciliare i tempi di lavoro e di cura. Avvocato Fava, dal punto di vista normativo siamo di fronte ad una bella rosa di disparità. Ma certo, ha assolutamente ragione. Uno slogan iniziale potrebbe essere: contratto che vai, tutela che trovi, o non tutela, perché in realtà è proprio quello, è ciò che avete anticipato in apertura. Oggi il quadro normativo è veramente desolante da questo punto di vista, ed è un quadro che deve essere completamente aggiornato, perché oggi le tutele o comunque l'attualizzazione di certe situazioni di malattie deve essere rivista completamente. Certo. Quindi c'è da mettere mano parecchio. Immaginiamo poi quando una lavoratrice non ha neanche un contratto di riferimento, perché appunto appartiene al mondo del lavoro autonomo. Allora, Daniela Fregosi, l'abbiamo già presentata poco fa, ti ritrovi in questa fotografia che abbiamo iniziato a scattare. Come è nata la tua storia? Come è nata Afrodite K? Per una donna che fa la lavoratrice autonoma, dal punto di vista dei denari, curare la parte di cuore della propria vita può essere particolarmente difficile. Allora, poi appunto, raccontarci come mai sei finita la ribalta della cronaca e quando e come hai iniziato la tua battaglia? Sì, diciamo che sostanzialmente il grosso shock che io ho avuto quando mi hanno, diciamo, comunicato la diagnosi di cancro al seno non è stato lo shock medico il primo ad arrivare, ma lo shock dell'agenda lavorativa. Cioè, la prima cosa che io ho pensato è: oddio, adesso come faccio con le date che avevo già fissate, che hanno iniziato a saltarmi da subito. Io addirittura non ero ancora arrivata all'intervento chirurgico e già avevo delle date da far saltare con il cliente finale. Quindi, diciamo, la parte denari per quanto riguarda proprio le lavoratrici autonome è molto veloce su quello che riguarda il fatturato. Cioè, noi non abbiamo mesi di cuscinetto che ci permettono di riaverci dalla notizia medica e organizzarci. Il fatturato si ferma, si riduce da subito, mentre dall'altro lato non si fermano i costi fissi che un dipendente non ha. Quindi tu continui a pagarti il tuo commercialista, i tuoi fornitori, addirittura alcuni hanno i contributi minimi obbligatori a prescindere dal fatturato. Quindi ti ritrovi in una situazione di tipo economico che è talmente drammatica che quasi va a sovrapporsi a oscurare le preoccupazioni che tu dovresti avere per la tua salute. Cioè, dovresti avere tutte le energie dedicate a coccolarti, no? A volerti bene, a curarti, a pensare alla tua salute. Invece sei lì che corri forte perché c'è Equitalia che ti viene dietro. Questa è la situazione. Infatti. Volevo chiedere alla dottoressa Luini se si ritrova nel racconto di Daniela di Afrodite Molto. K, perché incontrando donne quotidianamente che ricevono una diagnosi di tumore, quanto è immediato pensare più al lavoro, che ha la propria salute. Diventa quasi un automatico, sì, perché senza lavoro non si campa. Sì, ci sono alcuni pensieri automatici, no? Il lavoro, cioè la sopravvivenza reale, concreta, la famiglia, le persone di cui ci si sta prendendo cura, e poi la salute. È brutto dire poi la salute, ma veramente è così. E mi ritrovo moltissimo nella descrizione fatta, perché per me è un quotidiano confrontarmi con donne che a un certo punto si scontrano con un'interruzione improvvisa anche del lavoro, o quantomeno con una riduzione sostanziale. Quindi mi ritrovo molto. Proviamo a farci questa domanda, 800 24 00 24, e proviamo a pensare alle amiche che vicino a noi che hanno incontrato una storia di malattia. Noi partiamo dalla storia di tumore di Daniela, ma non ci limitiamo a questo, ci sono delle malattie, pensiamo ad un infarto, pensiamo ad una malattia cronica, pensiamo a una leucemia, diagnosi che arrivano, come diceva, certo, come sappiamo tutti, no? Dall'oggi al domani, e che ti costringono a vedere la tua vita e a fare e a dare delle precedenze, e ti scopri a dare delle precedenze che quando, no, eri sana non avresti mai pensato, ecco, di fare e di dare. Infatti volevo fare un'altra domanda anche a Daniela Fregosi, appunto sempre facendo un po' riferimento al suo blog sul quale è così attiva. Però Daniela, le storie che racconti non sono solo le tue, no, ma sono anche frutto delle tante testimonianze e segnalazioni che ti arrivano, peraltro proprio chi magari prima non aveva neanche pensato di appartenere ad un mondo molto ricco, ahimè, di esperienze di questo tipo, alla fine invece scopri appunto che ce ne sono tante di queste storie. Non so se alla fine diventa un mal comune mezzo gaudio, certamente magari un po', però anche la condivisione di esperienze può far qualcosa anche come supporto emotivo, ma anche come ricerca un po' di strumenti che possono aiutare a superare questi periodi. Sì, di storie raccontate ne ho avute molte, per esempio cito alcuni aspetti interessanti, la questione dei caregiver, cioè può non essere il lavoratore autonomo ad ammalarsi direttamente, cioè direttamente la donna, ma magari si ammala il compagno, il marito o un figlio. Ecco, nel caso in cui la donna sia una lavoratrice autonoma è veramente un dramma, perché per noi non c'è 104, non esistono i permessi, quindi anche questo è un aspetto molto, molto preoccupante di come la malattia incide poi sulla donna. Altro aspetto è molte storie, non è la mia perché ormai in mezza Italia sa quello che mi è successo, quindi sono diciamo diventata un personaggio pubblico, ma moltissime donne si nascondono perché, essendo libere professioniste, ovviamente hanno la paura che il cliente poi possa non contattarle una volta che viene a sapere di una malattia seria come un cancro, una patologia cronica, e questo è veramente dilaniante perché tu sei lì che stai cercando di riaverti, di trovare la forza per andare avanti, e devi spendere energie anche a nascondere il tuo stato. Quindi questo è veramente molto molto molto, certo, triste. E poi tantissimi lavoratori autonomi e donne che raccontano di essere schiacciati dagli studi di settore. Purtroppo anche questo per noi è un grosso problema. Pare che non sia sufficiente dimostrare con un bel certificato di intervento chirurgico per tumore che si è fatturato di meno. Io ho molti racconti di donne che si sono indebitate appunto perché hanno ricevuto uno studio di settore durante il periodo della malattia. Avvocato Fava, volevo sentire il parere dell'esperto legale su questi aspetti. Io condivido assolutamente tutto quanto appena detto. È sotto gli occhi di tutti la netta differenza fra lavoratore autonomo, parasubordinato, quello che vogliamo, ma comunque lavoratore autonomo e lavoratore dipendente. Il dipendente può ammalarsi, ha il cosiddetto periodo di comporto, cioè il periodo nel quale non è licenziabile, quindi il rapporto di lavoro viene preservato. Il lavoratore autonomo no. Anche che si parta dalla semplice malattia. Ma stavamo parlando anche venerdì mentre preparavamo la trasmissione. Si sloga il polso, un agente di commercio non può guidare, voglio dire, senza dover neanche scomodare patologie così importanti che immaginiamo che conseguenze possano avere. Basta solo questo, ad esempio. Esatto, infatti non ha tutele economiche, non ha degli aiuti fiscali, come giustamente diceva prima, quindi non c'è nessun tipo di intervento che possa agevolare o comunque far superare senza traumi questo momento di malattia, piccolo, medio o grave che sia. Certamente. Ci faceva notare Alberto, lo ringraziamo, ma siamo d'accordo con lui, che questo non è un problema specificatamente femminile, anche un autonomo maschio ha gli stessi problemi. Alberto ha ragione, noi però abbiamo deciso a cuore denari di partire da una storia tutta al femminile, ma vedo che la dottoressa Luini non è d'accordo, fa una differenza di genere. Dottoressa Luini, sono d'accordo, in generale sono d'accordo, d'accordissimo, però le donne tendono ancora in molti ambienti a essere maggiormente penalizzate. Il fatto di nascondere la malattia, per esempio, è molto vero ed è molto controproducente, ma le donne, indubbiamente, le donne che devono lavorare, che devono mantenersi il lavoro, fanno molta più fatica spesso perché sono donne. Mi spiace, ma è così, lo vedo tutti i giorni. Certo, un dato di fatto. 800 24 00 24, intanto naturalmente il numero verde è sempre a vostra disposizione. Se volete condividere la vostra storia con noi, se volete anche chiederci, per quanto possibile, appunto, per quello che possiamo fare questa mattina, oltre alla dottoressa Luini abbiamo anche un legale con noi che ci possono dare anche degli strumenti per capire come muoversi quando ci capita addosso una storia di questo tipo e davvero non sappiamo che pesci pigliare, dal punto di vista magari proprio dell'approccio alla rivoluzione della nostra salute personale, ma anche nel mondo del lavoro. Magari, insomma, delle strade ci sono per poterci tutelare, ma non abbiamo la lucidità mentale neanche per riuscire a captarle. Nicoletta, io volevo, se sei d'accordo, dare la linea alla nostra amica che ci sta chiamando dalla provincia di Brindisi. Volentieri. La prima ascoltatrice di questa puntata, a cui noi potremo dare ascolto, ma poi c'è anche una sorpresa per lei, perché la dottoressa Luini arriva sempre, no, con dei regali per voi. Allora, si chiama Mimiliana? Buongiorno. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuta. Grazie. La chiameranno Mimi o no? Mi chiamano Mimi. È esatto. Mimi. Dunque, la mia storia inizia quando ero ancora in allattamento, nella seconda bambina, quindi la cattiva notizia. E io sono in proprio con mio marito, abbiamo una società di traduzioni, un lavoro che ho dovuto per forza inventarmi, perché non mi potevo permettere di insegnare, perché ho una mamma che purtroppo in età molto giovane è entrata in casa di cura. Sì. Quindi ho solo noi, e quindi io da sempre ho dovuto già delle spese che non ti fanno partire bene, no? Già da una situazione di spese con una mamma che è in uno stato, vabbè, vegetativo, in casa di cura da 15 anni. Quindi io avevo un bel lavoro, a me piaceva insegnare, ma non me lo potevo permettere. Quindi mi sono dovuta inventare un altro modo per vivere e mi sono messa in proprio e continuo a farlo con mio marito. E quando ti chiedono in quelle fasi, 8 cicli di chemio, intervento, bambini piccoli, come stai? Era l'ultimo dei problemi, ed è l'ultimo dei problemi la chemio e la malattia. Il problema sono i debiti con Equitalia, l'INPS. Mio marito l'ho lasciato lavorare, ho fatto di tutto affinché almeno lui lavorasse, la chemio me l'andava a fare da sola, e già che mi trovavo a Brindisi passavo dall'Equitalia chiedendo di realizzare i pagamenti. Questa è stata la mia avventura, e ancora oggi io non dormo la notte, so che dovrei dormire, so che dovrei star serena, e so, perché so che non ci si ammala per caso, io lo so che non ci si ammala per caso, e però io devo pagare l'Equitalia. Mimiliana è mamma adesso di quanti bambini? 2, 3 e 6 anni. Eccoci qua. Ecco. Allora, quindi, cerchiamo anche di bravo. Quando le chiedono come stai, lei. Io penso a Equitalia. Non penso al tumore, quello vabbè si supera, però mi sento tanto male in fondo al mio cuore, perché io ho paura di riammalarmi, perché io lo so da dove parte la malattia e io so anche cosa si deve fare per star bene, ma è difficile quando ogni giorno devi cominciare da quel peso. Mm-hmm. Mimiliana, allora la storia di Mimì tocca il cuore e, come diciamo noi, fa puntata. Una testimonianza di questo tipo ci offre tantissimi spunti. Il coraggio che bisogna mettere per andare avanti. Mimì dice: io so che non ci sia mala per caso, so che cosa vorrebbe, no? Che cosa servirebbe per stare bene. Lo spettro di Equitalia, sentirsi da sola, ma intanto, no? A dare, permettere al marito di andare avanti, e questi due bambini di cui tu sei responsabile, che sono la tua gioia, che forse in queste condizioni non riesci, e ne hai la percezione, a goderti pienamente. Cuore e denari. I can hardly express my mixed emotions and my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express. Siamo tornati dopo i mercati, pronti a affrontare il tema del giorno, un tema complesso che ci tocca il cuore, perché ci stanno arrivando delle storie al femminile, testimonianze molto forti, sì. Ma naturalmente aspettiamo anche quelle che arrivano dall'altra metà del cielo, non facciamo, ma insomma, Daniela Fregosi, Afrodite K, ha iniziato a raccontarci la sua storia. Come sempre esiste quella solidarietà femminile, bastano delle parole per smuovere magari delle emozioni che abbiamo cercato di trattenere soffocate. Abbiamo sentito il racconto di Mimì, e meno male che ci sono stati i mercati, Deborah. Abbiamo ascoltato il lavoro, la storia di Mimì, e a microfoni spenti eravamo anche un po' tutti abbastanza frustrati qua in studio, perché pensavamo, così abbiamo fatto anche questo parallelo che può apparire anche un po' ardito: gabbare un'assicurazione per avere un indennizzo più alto dopo un incidente, basta che uno si metta un collare, venga certificato da un medico e in un istante, non si sa come mai, l'assicurazione si lascia così, no, truffare come se niente fosse, una diagnosi di carcinoma e di cancro al seno non è sufficiente per l'amministrazione fiscale per farle dire: senti, per 6 mesi sospendiamo il pagamento di tutti i tributi che ci devi, poi ne riparliamo fra 6 mesi e vediamo che cosa succede. Lo stesso vale per i contributi all'INPS, avvocato Fava. Nel 2015, per una donna sentire tutto questo è anche abbastanza inaccettabile. Poi molti ascoltatori dicono: questa puntata la dovrebbero sentire i politici. Noi stamattina ci siamo anche candidati a lanciare magari una petizione, un'iniziativa, non so che cosa. Già il dibattito è molto, perché non è facile parlarne, però è veramente incredibile. Ma ha ragione, siamo nel 2015 e ancora esiste questa disparità di trattamento per quanto riguarda le lavoratrici autonome, ed è talmente evidente che addirittura recentemente la Bruxelles è intervenuta con una risoluzione del gennaio 2014, con una risoluzione raccomandazione nella quale proprio mette in evidenza questa disparità e chiede un adeguamento delle disposizioni quadro in materia di protezione sociale dei lavoratori autonomi. Ma è riferita all'Italia questa pronuncia di Bruxelles? Cioè, è una raccomandazione che viene che rivolta tutti gli stati membri. Quindi l'Italia compresa. Per cui dovremmo anche qua ottemperare, recependo questa raccomandazione direttiva. Che cos'è? Non ho capito, sì, avvocato? È una risoluzione di Bruxelles che comunque raccomanda a tutti gli stati membri di intervenire. Quindi è importante, anzi, se vogliamo, è lo spunto per poter, dal nostro punto di vista, Paese Italia, intervenire, certo, e disciplinare finalmente, colmando questa discriminazione. Visto che questo governo si è dato un grande affare per il riconoscimento, per esempio, dell'indennità di maternità per le lavoratrici subordinate, che faccia anche un passo avanti, visto, no, Nicoletta, tu me lo racconti tutti i giorni, quanto la malattia colpisce sempre di più. Allora, torniamo alla nostra Daniela. Volentieri. Perché sta mettendo in atto delle proposte anche molto concrete. Che cosa stai facendo, Daniela, di fronte a queste criticità? C'è già una petizione da oltre un anno che è ancora possibile firmarla, quindi chi ci ascolta la può trovare nel blog di Afrodite K. Benissimo, la mettiamo anche su Facebook e andiamo a firmare anche noi, Daniela. È una petizione che ha superato le 80.000 firme, è sulla scrivania scrivania del ministro del lavoro Poletti, è conosciutissima, addirittura molte amministrazioni locali, comuni e regioni stanno approvando ordini del giorno proprio per fare, con il testo di questa petizione, per fare pressione al governo centrale di Roma. Quindi diciamo che Avro di TK non si è limitata ad aprire un blog, sta facendo una vera azione di tipo, direi, quasi politico, pur non essendo un politico. Quindi niente, manca di tradurre ciò che già esiste in leggi, quindi legiferare in maniera tale che l'INPS ed Equitalia a stretto giro facciano ciò che dice una legge più giusta, che attualmente non c'è. Quindi io purtroppo ascoltavo Mimì anch'io con il cuore piccolo piccolo e vi lascio capire quello che sta succedendo oggi in trasmissione, che è una giornata. Io lo sto vivendo da un anno, perché è da un anno che donne come Mimì, e non solo donne, anche uomini, mi scrivono, mi chiamano, commentano il blog con le loro storie. Quindi io proprio il polso di una situazione drammatica anche nei numeri. Tutte persone che spesso non vengono fuori, ripeto, perché sono professionisti autonomi e quindi non conviene loro sbandierare ai 420 di avere una patologia grave. Questa è la vera tristezza, ma vi assicuro che i numeri sono, poi insomma 80.000 firme in una petizione parlano da sé, parlano, no? Da sola, i numeri, certo. Cioè c'è poco da dire, è ovvio, si ammalano anche gli autonomi, pare strano ma è così. Daniela, grazie per la tua testimonianza, grazie di questa mattina, bocca questa al lupo, facci sapere come porterai avanti la tua battaglia, naturalmente cercheremo di darne tutto il risalto che merita, raccontaci anche come andrà avanti la petizione, andiamo a firmarla naturalmente, oggi certamente 4 firme in più ci saranno, e per il resto, esatto, dopodiché magari cercheremo anche nel nostro piccolo di portare avanti in maniera, magari attraverso altre direzioni, questa battaglia. Grazie molte Daniela, in bocca al lupo per tutto. Un abbraccio. A presto. Volevo fare anche una piccola parentesi da donna di cuore, agli aspetti di cuore, proprio di relazioni, di sentimenti, e ho bisogno della dottoressa Luini, perché spesso la malattia comporta un momento di criticità nella coppia che non sempre viene superata, i dati lo confermano, ci sono fior fiori di ricerche secondo cui se ad ammalarsi è la donna, i due partner hanno una probabilità di grandi difficoltà nel rapporto, mentre se è l'uomo insieme è un pochino diverso, la crisi c'è ma con vissuta diversamente, gestita diversamente. Quando si ammala la donna c'è sempre un periodo medio-lungo di difficoltà a comunicare. La donna di solito si occupa, ama, a un certo punto si trova nella necessità anche di ricevere più che di dare, e questo è il punto vero della crisi. Però c'è anche da dire che a volte la donna, quando si ammala, ha una tale rivoluzione interiore che anche quando riceve non si accorge di ricevere, quindi ha delle aspettative. La crisi della coppia durante o dopo una malattia della donna è un argomento complesso ma molto vero, molto quotidiano. Si può affrontare. Di solito la situazione di base è: non riusciamo più a comunicare, vediamo come ritrovare un punto comune, che non può essere quello di prima. La donna è cambiata, l'uomo sta cambiando ed è cambiato. Si tratta di non avere aspettative, di non dare per scontato di sapere cosa voglia l'altro. Il professor Veronesi dice che non è difficile togliere il tumore dal seno di una donna, è difficile toglierlo dalla testa. Affermazione naturalmente che è valida per ogni tipo di patologia oncologica e anche per ogni tipo di malattia qualsiasi cronica. Perché in fondo da quanto raccontano le donne, anche leggendo i suoi libri, dottoressa Luini, ho capito che una diagnosi di cancro è spesso vissuta come una diagnosi di tradimento del corpo. Ieri era tuo, oggi è abitato da qualcuno, da qualcosa di non controllabile. E quando il corpo tradisce, c'è bisogno di qualcosa, di qualcuno, no? Di un alleato o di più alleati che ti aiutino a ritrovare la fiducia, a ricostruire un tuo futuro, che tenga conto anche naturalmente delle modificazioni del corpo, della tua vita. Oggi parliamo proprio della relazione, il lavoro è il primo pensiero, ma che tenga conto di tutte queste cose che accadono dopo che c'è stato questo tradimento o quello che tu vivi come tale. Sì, proviamo a immaginare come possiamo sentirci affermando di noi stessi: io sono sano, oppure io sono malato. Nel momento in cui c'è una diagnosi di cancro, ma anche di una malattia di cuore, una malattia cronica, il diabete per esempio, una malattia che poi ha dei pericoli per il futuro, nella mente si insinua il dubbio o, e qui è un po' tragico, la certezza di essere ammalati. A questo punto nella mente scatta un lavorio che influenza tutto, anche il comportamento nel quotidiano. Veronesi dice così, dice possiamo togliere da un corpo la malattia, ma dalla mente è molto più difficile, proprio perché con le terapie una malattia spesso, non dico sempre, ma spesso si riesce a togliere o comunque a gestire, a controllare, ma resta sempre il trauma, e se quel trauma lì non permette alla persona di fare un passo avanti, cioè di evolvere, è una specie di condanna interiore. La persona si sentirà sempre diversa, in pericolo, angosciata, in qualche modo esclusa dal mondo dei sani. Ed è il problema maggiore. L'unica per cui noi siamo uguali è il mondo del lavoro, no? Per cui che non tiene conto di tutte queste modifiche, Deborah. Infatti, allora, a proposito di questo, anche Federica da Rimini all'800240024 è pronta a raccontarci la sua storia. Tra l'altro stamattina stiamo molto soffermando la nostra attenzione sulla differenziazione che c'è ovviamente fra lavoro autonomo e lavoro dipendente, ma non credete, anche all'interno del anche nel mondo del lavoro dipendente, molti responsabili delle risorse umane sono in grande difficoltà a gestire queste situazioni, non conoscono addirittura le normative di base, per cui avvocato Fava, poi faremo un punto anche su questo. Cuore e denari. Curando questi mali, gli uomini e le donne sono uguali. Parlare di lavoro, donne, malattia, voi continuate a farci i vostri racconti, a inviarci le vostre testimonianze, lo potete fare direttamente all'800240024, per non parlare di quante di voi ci stanno scrivendo. Proprio adesso commentavamo a microfoni spenti un caso incredibile di una donna a cui è stato contestato, adesso ve lo leggeremo, questo messaggio, il fatto di essere rimasta incinta in tempi troppo brevi, quindi troppo poco il tempo tra una gravidanza e l'altra, e questo ha avuto delle ripercussioni sul riconoscimento di tutta una serie di cose che adesso vi racconteremo, per cui andiamo appunto alle vostre testimonianze. Avevamo in sospeso il caso di Federica da Rimini, che salutiamo e alla quale diamo il nostro benvenuto. Buongiorno, grazie. Buongiorno Federica, ci racconti un po'. Volevo raccontare un attimo brevemente la mia esperienza, risale un paio d'anni fa, quando ero titolare socio lavoratrice di un'azienda che ha chiuso, e mi sono ritrovata nello stesso periodo in cui ho chiuso l'azienda anche ad avere un problema di salute, nel senso che avevo dei problemi di tiroide e mi sono dovuta dovevo fare degli esami anche abbastanza costosi, e speravo almeno di avere qualche agevolazione nel pagamento del ticket, insomma. E però niente, ho riscontrato il fatto che se fossi stata dipendente, avessi avuto la disoccupazione, oppure insomma fossi stata iscritta alle liste di collocamento, avrei almeno avuto la sospensione del ticket, non avrei dovuto pagare quello. Invece col fatto che uscivo da un'esperienza di lavoro autonomo, certo, non avevo proprio diritto a niente. Tra l'altro i nostri dipendenti che abbiamo lasciato a casa comunque erano coperti da questi strumenti, come anche la moratoria del mutuo, tanti strumenti che sono stati messi in atto proprio per i dipendenti, però gli autonomi sono stati completamente dimenticati, mi ha fatto venire una gran rabbia, perché oltre al fatto di star male, insomma, ho pensato a tutti gli anni in cui comunque ne avevamo sempre pagato i contributi, le tasse, e abbiamo contribuito nel nostro piccolo, era un'azienda piccola, non è che avessimo grandissimi movimenti, però io ero molto soddisfatta del fatto di avere potuto anche allargarci e dar lavoro a diverse persone. E tutto questo non è infatti assolutamente... Federica, in certi momenti veramente oltre al danno la beffa. Tra l'altro stavamo anche considerando il fatto che per molti lavoratori e lavoratrici autonomi e autonomi, appunto, l'unica via d'uscita tra virgolette sarebbe quella di potersi pagare una buona assicurazione che copra da queste emergenze, ma anche lì, quando tu ogni mese hai il fisco che bussa alla porta, i contributi da versare, anche togliersi qualcos'altro per l'assicurazione, certo che andrebbe fatto, è ovvio, però, avvocato Fava, non sono poi strumenti assicurativi che quando capitano le emergenze, se devono coprire tutto, significa che altrettanto il premio che devi pagare deve essere anche consistente, perché non è una piccola assicurazione tipo da 20 euro al mese. Ma certo, dal punto di vista legale potrei fare un paragone, insomma, quindi parlando strettamente dal punto di vista strettamente giuridico, con lo Stato il contribuente ha un contratto. Il contratto prevede due prestazioni: una prestazione da parte del contribuente e una controprestazione da parte dello Stato. La prestazione da parte del contribuente qual è? Quella di pagare le tasse, no? Per avere una controprestazione, quale? Servizi, che in realtà, per quanto riguarda il lavoratore autonomo, non ci sono. Esatto. E quindi interveniamo. Pur pagando ugualmente le tasse. Senta, mi fa un commento sull'aspetto che ho sollevato prima. Quando anche nel lavoro dipendente arrivano le difficoltà, ci sono davvero situazioni in cui responsabili delle risorse umane, dell'ufficio del personale, magari nelle piccole aziende, non sanno bene come gestire le situazioni di donne che si ammalano di problematiche così serie come quelle che stiamo scandagliando stamattina? Ma ha perfettamente ragione, ma tutto questo dipende da che cosa? Sempre e comunque da una legislazione antica che deve essere aggiornata. Consideriamo il fatto che noi ad oggi abbiamo come fonti legislative, ne abbiamo soprattutto due, la 104 del 92 e quella sulla disabilità, quindi sempre norme risalenti a decenni fa. Una norma, ricordiamo la 104, che prevede che un lavoratore si possa prendere 3 giorni di permesso al mese, sì, nel caso in cui abbia un problema di salute o soprattutto se deve assistere, che non so, un bambino portatore di handicap, un anziano in casa, un genitore che si ammala. Esatto. Ecco, questo è quanto, il massimo che abbiamo. Esatto, è la 68 del 99 che interviene sulla possibilità di iscriversi alle liste di collocamento, ma null'altro, non c'è null'altro. Poi è lasciato a che cosa? È lasciato ai contratti collettivi, che sono tantissimi e ognuno dice una cosa diversa, se prevede qualcosa a tutela di queste situazioni di malattia, o se no è lasciata molto alla sensibilità del datore di lavoro, e quindi lì si apre un altro mondo, perché a quel punto c'è l'imprenditore particolarmente sensibile che interviene costruendo nel contratto collettivo di secondo livello, che è quello aziendale, quindi coi sindacati si vanno a prevedere determinate fattispecie. Ma tanto per capire, una donna che ha avuto una diagnosi di carcinoma, che deve fare la chemioterapia, e la chemioterapia è pesantissima, adesso io non vorrei andare ad esplorare anche un mondo sul quale naturalmente la dottoressa Luini mi darà maggiori informazioni, ha bisogno a seguito del trattamento, che so essere anche molto pesante, dottoressa, magari qualcuna lo sopporta meglio, qualcuno ha bisogno per recuperare di stare a casa 3 giorni, in quei 3 giorni, se non ha sufficienti permessi da parte dell'azienda, deve comunque tornare al lavoro, questo è quello che io capisco. Guarda, avvocato Fava, ha due diritti, dice bene, ha due prevalenti principali diritti. Quello di poter vedersi trasformare il rapporto da full time a part time, e quando ritorna in forze, ritornare automaticamente in full time, e questo è un unico diritto. E poi ha il grande e universale diritto del periodo di comporto, il periodo di conservazione del posto durante la malattia. Ma tutto questo risale al 92, quindi oggi le situazioni si sono molto evolute e purtroppo si sono aggravate, quindi c'è bisogno di intervenire anche dopo l'instaurazione della malattia. Certo, con tutto il rispetto, ministro Poletti, qua dopo il contratto a tutele crescenti c'è da lavorare. C'è da lavorare. Non si potrebbe non annoiarsi se solo avesse voglia. Prima di dare la parola a Daniele da Napoli, che salutiamo, ricordiamo anche che oggi possiamo dare alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori, 3 libri, abbiamo 3 copie dell'Età della Donna e 3 copie di Il mio mondo è donna, e quindi, no, il fil rouge è proprio tutto femminile. Ma a proposito, vorrei leggere la mail, l'SMS a cui faceva riferimento Deborah, è di Elisabetta, che ci racconta che ha avuto la seconda gravidanza, le 2 gravidanze erano molto vicine, e il suo commento è: se rimane incinta per sbaglio, troppo in fretta, la seconda gravidanza e maternità sono tutte a carico della donna. Ciò vuol dire cercare di lavorare fino al giorno del parto, mentre si allatta pur di guadagnare. Riassumo un po' il suo SMS. Avvocato Fava, è così? Ma sembra paradossale, qui bisognerebbe entrare un attimo nel caso concreto, perché che ci sia poca tutela è assolutamente vero, ma che in questo caso addirittura la seconda gravidanza non venga coperta dal punto di vista mi prima. Sembra troppo, quindi sarebbe opportuno ci scriva Elisabetta un filino di prevaricazione. Cuore e denari. Voglio una donna, donna, donna, donna, donna con la gonna, gonna, gonna. Voglio una donna, donna, donna. E continuiamo a parlare di lavoro, di donne, di malattia. Voi continuate a chiamarci all'800 24 0024, raccontateci, regalateci le vostre storie. Potete scriverci al 349 238 6666. Oggi in studio con noi l'avvocato Fava, giuslavorista, e la dottoressa Giovanna Luini, che aiuterà le donne anche a capire come si può fare prevenzione, come si possa coniugare in qualche modo una vita attiva, piena di impegni, lavoro, famiglia, relazioni, senza trascurare troppo la nostra salute. Volevo anticiparvi che abbiamo messo sulla pagina di Cuore Denari dei dati interessanti, perché Eurisco si è dedicata al tema delle donne e alla loro salute con un'indagine condotta su un campione di 10.000 casi rappresentativo della popolazione italiana adulta. Ne abbiamo parlato con Isabella Cecchini, che è direttrice del Dipartimento Ricerche sulla Salute di Eurisco. Potete andare a sentire il suo commento, così da avere un quadro, un profilo della donna in salute nel mondo del lavoro. E allora voi, se siete lavoratrici o lavoratori autonomi e vi siete trovati a gestire una malattia, chiamateci. L'avete confessato, è emerso una sorta di grande difficoltà a comunicare, dottoressa Luini, il sì. proprio stato di malattia. Sì. Ma in questa parte conclusiva della trasmissione vogliamo occuparci anche del dopo. Esatto. Quando la malattia ci lascia, no? Sì. Recuperiamo salute o riusciamo comunque a controllare la malattia e quindi affrontare la nostra quotidianità, una quotidianità che deve assolutamente tenere conto dei cambiamenti perché sono dentro di noi, sì. ma che spesso è come una seconda malattia. E parliamo non solamente dei lavoratori autonomi, ma anche di quelli dipendenti, che si trovano un po' a essere, forse anche in buona fede, emarginati. L'avvocato Fava, microfoni spenti, ci ha detto una delle frasi ricorrenti: sono stata operata al seno. Sì, una delle affermazioni che è bellissima nella sua drammaticità, e cioè mi hanno levato un seno, non il cervello. E risponde, rispecchia sicuramente alcune realtà, non tutte, ma la maggior parte delle realtà di quelle donne che purtroppo passano da questa malattia e devono ritornare a lavorare. E ritornando a lavorare subiscono o comunque affrontano un ambiente lavorativo che in buona fede qualche volta... Accendo un riflettore addosso un pochino, o magari ce lo si sente, no? Certo. Addosso anche quando, non so dottoressa Luini se è d'accordo, sì. anche quando non c'è esattamente questo guardare strano alla persona che ha avuto questo problema. Ma sì, il discorso lì è, secondo me, un po' complicato, perché sicuramente non si è più la stessa persona di prima, cioè non si ritorna come prima, ma non solo fisicamente. L'interiorità non è quella di prima, perché c'è stato un grosso problema. Però non si desidera essere sempre trattati come diversi, si desidera che gli altri prendano atto di una differenza da prima, cioè c'è stato il trauma, ma una differenza che non è un minus, non ci toglie nulla, semplicemente abbiamo vissuto un grosso problema, o magari lo stiamo anche vivendo. Pensiamo a tutte quelle persone che vivono con una malattia cronica ma possono tranquillamente lavorare e affrontare il quotidiano. Allora non siamo più quelli di prima, però non siamo neanche persone da emarginare o da guardare come se avessero addosso qualcosa di infettivo, in un certo senso. Il dopo ha dentro la trasformazione interiore, qualche volta ha anche qualche disturbo fisico piccolo di cui i medici non si occupano, perché quando c'è una malattia si pensa al grosso, no? La malattia è al sintomo grosso, il pericolo grosso. Pensiamo che chi ha avuto una malattia nel passato e ha avuto certe terapie potrebbe avere dei fastidi quotidiani che sono difficili da affrontare coi medici, perché ci sembrano piccoli, inessenziali, poco importanti. In realtà tutto fa parte del dopo. Bisognerebbe occuparsi anche di queste cose che apparentemente sono piccole ma influenzano aumentano la qualità della vita. Perché una persona che ha superato un grande trauma, si è visto, no? La vita completamente cambiata dall'incontro con una malattia, sì, che poteva, no, costarle, certo, la vita, certo, ha quasi un timore ad andare dal medico. Me lo, sì, raccontano quando faccio, no, degli incontri, sì, tante donne, insieme alla dottoressa Luini, quando andiamo a, sì, presentare i suoi libri, sembrano, no? Sembra, sì, che uno si lamenti di una piccolezza, la nausea, magari il prurito o la riduzione sessuale, del desiderio sessuale, quel leggero mal di testa, quella pigrizia, sì, sono tutte ma anche per gli uomini dopo alcuni trattamenti tipo la radioterapia, no? Pensiamo al tumore della prostata, ma insomma sto facendo uno tra i tanti esempi possibili. Dopo ci possono essere fastidi, mm-hmm, e c'è quasi la vergogna di andare dal medico e chiedere. La cosa classica è che arrivi la persona e mi dica: scusi, lo so che le chiedo qualcosa di poco importante, mi scusi, mi vergogno, però... E viene fuori un problema che limita la qualità, certo, della vita. Tant'è vero che noi abbiamo anche Salute Uomo, anche per parlare di tutto questo, vero Nicoletta, ricordiamolo. Sì. E abbiamo un uomo. Abbiamo un uomo. Oltre all'avvocato Fava, che è qua in studio con noi, che pronto a rispondere. Ma secondo voi sono un cartone animato? No, sono io qua. Pronto a rispondere alle vostre domande, perché infatti un giuslavorista lavorista viene sempre buono. Certamente. Daniele. Daniele da Napoli, benvenuto. Buongiorno. Sì, che cosa voleva raccontarci? No, io più che raccontare, l'ho spiegato, volevo dare un suggerimento. Bravo Daniele, siamo tutte orecchie. Ma non è che sia neanche complicato, cioè l'INAIL, tra virgolette, costringe per gli infortuni a pagare anche i lavoratori autonomi. Mm-hmm. Non vedo perché non estendere questo tipo di copertura anche alle malattie, certo, o fare una convenzione di carattere nazionale con le principali compagnie di assicurazione, tante ormai sono rimasti 2-3 gruppi in Italia, allora, la chiave polemica, ma gli strumenti ci sarebbero, dice lei, gli strumenti ci sarebbero, dice lei, veicoli per fare queste coperture. Fare un po' di campagna di informazione, perché quando ci si è sani non si pensa mai che qualcosa può succedere, e quindi diciamo che tra virgolette lo Stato, che dovrebbe in questo essere il padre di tutti, dare qualche consiglio, dare qualcosa in tal senso, fare una campagna di sensibilizzazione. Hanno costretto le casalinghe a fare una polizza infortuni, non vedo qual è. Allora, quindi insomma, copertura aggiuntiva per coprire anche eventualmente periodi di malattia di altro tipo, avvocato Fava. Beh, sì, insomma, le soluzioni che potrebbero essere adottate sono molte. Abbiamo dei colossi assicurativi in Italia che potrebbero farsi carico in maniera diversa di tutto questo, lo Stato che potrebbe fare tanto. Qua però, insomma, parlando col condizionale, potremmo andare avanti pure noi per altre 15 puntate senza risolvere granché. Ma, certo, ma nell'immediato, insomma, un giuslavorista cosa dice? Esatto, nell'immediato certamente ci sono tante cose. Cerchiamo di concentrarci su alcuni interventi che siano fattibili, che sia possibile immettere sul mercato italiano. E quali sono? Ad esempio un testo unico del malato oncologico. Perché? Perché oggi c'è un disorientamento da parte del malato oncologico in relazione alle norme, in relazione a quali sono i suoi diritti, i suoi doveri, che cosa può fare e cosa non può fare. Quindi questo è senz'altro un intervento, certo, ottimale. L'altro, arricchire e migliorare il sistema di welfare. Perché? Perché c'è, ad esempio, da prevedere l'aiuto, l'assistenza psicologica, che è molto importante per quando il malato oncologico ritorna sul lavoro, e oggi è quasi fondamentale, anzi strutturale, per la buona riabilitazione, affinché il malato, la malata oncologica, possa ritornare, certo, con successo a lavorare. Ecco che questo deve essere inserito nei nuovi piani di welfare. Oggi si parla moltissimo di sistemi di work-life balance, quindi conciliazione vita-lavoro. Ecco, interveniamo e miglioriamo questi piani di welfare. Andiamo ad arricchirli con più moderne tecniche di welfare, qua ad esempio l'introduzione dell'assistenza psicologica per quanto riguarda a favore dei malati oncologici. E poi ci sono altri interventi, se ci sarà il tempo. L'intervento dell'avvocato Fava, dottoressa Luini, mi permette di tornare ad un tema a me caro, che noi tutti dobbiamo impegnarci, e lo ripetiamo, a Cuore Denari, con consapevolezza a mantenere e a preservare la salute. E per farlo dobbiamo conoscere il nostro corpo, ma usare anche la nostra mente. Anche questa è prevenzione, conoscere il potere curativo della nostra mente, che ci aiuta anche a affrontare la malattia e ad affrontare la quotidianità dopo la malattia. Sì. Fino adesso abbiamo avuto tutta una serie di sollecitazioni che ci fanno pensare che il mondo esterno ci impedisca di amarci fino in fondo. In realtà, se riusciamo a mettere al centro della nostra attenzione e del nostro amore noi stessi, non sto parlando di una reazione egoistica, ma se abbiamo ben presente che noi siamo l'unica cosa che abbiamo, la nostra vita è l'unica che abbiamo e noi siamo il nostro miglior amico, il nostro vero partner, partendo dall'amore per noi stessi, riusciamo a reagire a tutte queste sollecitazioni di cui stiamo parlando adesso in un altro modo. La mente ha un grande potere, perché la mente ha, insieme alle emozioni, attenzione perché le emozioni sono importantissime, il potere di farci ammalare, ma anche il potere di mantenerci in salute o farci ritornare in salute, o ancora ha il potere, nel caso della malattia cronica, di farci vivere molto a lungo con un buon benessere, con un pieno benessere. Il potere della mente è fondamentale, anche perché tutto ciò che stiamo sentendo oggi, purtroppo in termini negativi sulla quotidianità, può influire sulla mente e quindi peggiorare uno stato di salute. E questo non va sottovalutato, in qualsiasi sede non va sottovalutato. La mente ha però la capacità di reagire e il punto focale è amare se stessi. La prevenzione, in fondo, se ci pensate, nella persona sana o nella persona che ha avuto o ha una malattia, è amore per se stessi, non è ossessione, non è una regola data dall'esterno, è amore per se stessi che porta poi a comportarsi in un modo adattivo, in un modo positivo per essere in piena salute. Allora, sentiamo Vincenzo dalla provincia Direi di Caserta, sì. Poi con so piacere. Che dobbiamo anche ricordare di un'altra battaglia preventiva, sì, certo, delle quali le donne... Di cui si dimenticano, c'è un nemico delle donne di cui vorrei parlare con la dottoressa Luini e di cui vorrei rimandare ad un'associazione che se ne occupa, l'Acto Onlus e il tumore ovarico. In questa prevenzione a bikini, perché gli epidemiologi, i medici, i ricercatori si sono per anni concentrati sulla prevenzione seno e utero, che sono due tumori prevenibili, con uno con lo stile di vita, l'altro con la vaccinazione del papilloma virus, di cui adesso c'è un po' una revisione, perché è dell'intera salute, certo, della donna, quindi cuore, ossa, articolazione, ma oggi vorremmo lanciare una raccomandazione alle donne all'ascolto. Deborah lo sa, infatti me lo diceva, io ci tengo molto perché è un nemico che noi non conosciamo, non vogliamo conoscere, ma bisogna, è davvero cattivo. Ma andiamo a Vincenzo che pure vuole raccontarci la storia dell'arrivo di una malattia all'interno di questa famiglia che ha scombussolato un po' tutti, vero Vincenzo? Buongiorno, dalla provincia di Caserta. Buongiorno. Eccoci. Buongiorno. Senta, mi sono sentito spinto di parlare di questo fatto, perché effettivamente quando avviene una malattia in una famiglia, la famiglia scoppia. Viene messa a dura prova, Vincenzo. Dura prova. Dunque, tutta la nostra vicenda tutta è sorta 8 mesi fa, noi all'improvviso abbiamo scoperto che mia moglie aveva una insufficienza renale. Noi non sapevamo niente, all'improvviso è successo. Dalla sera alla mattina è andata in dialisi, è dovuto andare in dialisi perché rischiava la vita. E mi sono preoccupato di vedere, dico, ma come mai tu? Noi non siamo degli sprovveduti. E quindi ho cercato tra le carte per vedere questa benedetta creatinina, che cosa, quando è sorta, non ne trovavamo. Però ho ricordato che 3 anni prima mia moglie ha avuto un intervento perché si era rotto un braccio, loro ho chiesto la cartella clinica. La cartella clinica, quando l'ho presa, con sorpresa, ho visto che già era 3,5 e a me non è stato comunicato niente. Quindi una creatinina di 3,5, mia moglie ha subito un'operazione di 3-4 ore con una creatinina di 3,5 e noi non sapere niente. Quindi noi dal settembre del 2011 a 8 mesi fa, quindi in 3 anni, noi questa situazione l'abbiamo peggiorata perché non sapevamo niente. E quindi adesso Vincenzo, sua moglie, è in dialisi. Tra l'altro proprio il 12 marzo sarà la giornata mondiale del rene, e che è proprio volta a sensibilizzare l'opinione pubblica su questa coppia di organi che lavora in silenzio e che spesso quando si ammala non dà segni di sé. Ma la creatinina, dottoressa Luini, è sicuramente... Se posso dare un piccolo suggerimento, capisco che quando insorge una situazione così complicata e anche così difficile per la persona, si tenda a guardare indietro, a chiedersi perché. È una domanda assolutamente legittima e ci sono sedi e luoghi dove chiarire il perché, ma adesso la cosa fondamentale è pensare all'oggi, cioè come sta la moglie, come si riesca oggi, senza ritornare troppo indietro con la mente, a fare stare bene questa persona e a ricostruire l'equilibrio familiare. Certo, la dialisi magari in futuro per un trapianto. Per esempio, spesso tornare indietro e chiedersi perché, per carità, è utile, giusto e lecito, però fa affermare con la mente nel passato e ci si tortura con la domanda, si va avanti e si continua a chiedere sempre la stessa cosa. In realtà va bene, chiariamo il passato, ma siamo oggi, siamo al presente, la persona ha bisogno dell'amore del marito oggi. Dottoressa Luini, ti è piaciuta, vero Debra? Come, perché ci piace. Come sempre, d'altronde piace. Siamo sempre appese. Dottoressa Luini, rapidamente, sì. C'è un'associazione, l'Actonlus, che si occupa di informare e di sostenere le donne sul tumore ovarico e di sostenere quelle che lo hanno incontrato. Sì. Abbiamo 30 secondi, rimandiamo al sito, dedicheremo un'intera puntata, ma ecco, a me sta molto a cuore, perché le donne non lo sanno. Le donne non lo sanno. Sì. Esiste il tumore ovarico, è vissuto ed è comunicato come un tumore tremendo. In realtà bisogna che tutte le donne siano consapevoli, certo, del rischio, ma anche della possibilità di sottoporsi a controlli, e soprattutto bisogna che le donne sostengano le donne che come loro soffrono per un tumore ovarico. Quindi Actonlus sta facendo un grandissimo lavoro ed è molto importante. Allora, la nostra trasmissione purtroppo sta volgendo al termine, non riusciamo a sentire Giulia dalla provincia di Milano. Giulia, ci scriva, ripescheremo in qualche maniera la sua testimonianza. Non riusciamo neanche a dire come il Jobact abbia, ecco, però mi stanno suggerendo le mie amiche che a Giulia regaleremo un libro della dottoressa Luini, o Il mio mondo è donna, scritto con Umberto Veronesi, oppure L'età della donna. Valutiamo adesso tranquillamente a microfoni spenti. Poi in un'altra occasione con l'avvocato Fava racconteremo anche il Jobs Act, che cosa prevede, visto che siamo sull'onda dell'emanazione dei decreti attuativi. C'è ancora molto da raccontare anche su quello che attiene alle donne con problemi di salute, il loro impiego su mansioni diverse nell'ambiente di lavoro. Ci sono molte cose interessanti, ne parleremo. 5 secondi? Certo, certamente ci torniamo, anche perché dobbiamo aspettare altri decreti attuativi che potrebbero essere calzanti sul punto. Perfetto, quando sono pronti ci faccia una telefonata, che noi saremo naturalmente pronte a portare tutto a Cuore Denari. Abbiamo terminato. Abbiamo Nicoletta. Terminato, domani non ci sarò, ma vi lascio in ottime mani. Torno mercoledì. Farò la brava, te lo prometto. Buona giornata a tutti.